Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Ödön von Horváth, traduzione di Bruno Maffi. Il penultimo giorno. Finalmente si fa grigio. È l'alba. Non c'è nessuno davanti a me. Nessun viso, nulla. Ritorno furtivamente al campo. Il sergente giace supino, la bocca aperta. La pioggia batte sulla tenda. Mi sento improvvisamente stanco. Dormire. Dormire. Quando mi sveglio i ragazzi sono già partiti. Dirò a Zeta che sono stato io e non Enne ad aprire la cassetta. Glielo dirò appena ritorna. È il penultimo giorno. Domani smontiamo le tende e torniamo in città. Piove a dirotto. Solo a tratti smette. Una bruma densa copre la vallata. Non rivedremo mai più le montagne. Il reggimento torna a mezzogiorno, ma non è al completo. Manca Enne. Forse si è smarrito, dice il sergente, ma saprà ritrovarci. Non posso fare a meno di pensare alle caverne del diario di Zeta e provo un vago malessere. È paura. Devo parlargli subito, subito. È tempo ormai. Zeta è seduto sotto la tenda e scrive. È solo. Appena mi vede, chiude in fretta il diario e mi guarda, diffidente. Ah, scriviamo sempre il diario, dico, e mi sforzo di sorridere. Lui tace e seguita a guardarmi. Osservo solo ora che ha le mani tutte graffiate. Coglie il mio sguardo e trasale. Si caccia le mani nelle tasche. Hai freddo? Gli chiedo, senza lasciarlo con gli occhi. Non mi risponde. Annuisce soltanto con la testa e un sorriso ironico guizza sul suo viso. Ascolta, comincio. Tu credi che sia stato Enne a forzare la cassetta? Non solo lo credo, mi interrompe. Ne sono certo. Che cosa te lo fa credere? Me l'ha detto lui. Lo guardo. Gliel'ha detto lui stesso. Ma è impossibile perché non è stato lui. Zeta mi lancia uno sguardo indagatore. È un attimo. Prosegue. Me lo ha confessato stamattina. L'ha forzata con un filo di ferro e non ha potuto richiuderla perché la serratura si era rotta. E allora? E allora mi ha chiesto di perdonarlo e io l'ho perdonato. Perdonato? Sì. Guarda davanti a sé indifferente. Non so più cosa pensare. Mi torna alla memoria quella frase: chi tocca la mia cassetta muore. Ah, assurdo. Tutto assurdo. Sai dove si è nascosto Enne? Chiedo. Non batte ciglio. Come vuole che lo sappia? Si sarà smarrito? Anch'io mi sono smarrito nel bosco, una volta. Si alza e ho l'impressione che non dirà più nulla. Osservo allora la sua giacca. È stracciata. Devo dirgli che mente? Che Enne non può mai averglielo confessato perché io ho letto il suo diario. Ma perché mente? Meglio non pensarci più. Ah, perché non gli ho parlato subito, ieri, quando si era appena picchiato con Enne? Perché mi vergognavo di confessare davanti ai miei scolari che avevo forzato una serratura con un filo di ferro, per quanto naturalmente con le migliori intenzioni del mondo. Certo, certo. Ma perché ho tardato stamattina? Già, ho passato la notte nel bosco. Non ho parlato. E ora, anche se parlassi, servirebbe a ben poco. È troppo tardi, ora. Sì, anch'io sono colpevole. Anch'io sono la pietra contro cui ha inciampato, il fosso nel quale è caduto, la roccia da cui è precipitato. Perché nessuno mi ha svegliato stamattina? Non volevo farmi condannare ingiustamente, invece di difendermi ho dormito. col mio libero arbitrio volevo tirare una riga su un conto, ma il conto era da tempo saldato. Volevo salvare tutti noi, ma eravamo già tutti annegati nel mare eterno della colpa. Ma di chi la colpa se la serratura si è rotta, se non è stato possibile chiuderla? Poco importa, aperta o chiusa, avrei dovuto parlare. Le vie della colpa si toccano, si incrociano, si confondono. Un labirinto, un dedalo, con specchi deformanti. La fiera, entrate, entrate, signori, e spiate la colpa di vivere, e niente paura, è troppo tardi. Nel pomeriggio andammo in cerca di N. Frugammo tutta la zona. Chiamammo N e ancora N senza ricevere risposta. Io del resto lo sapevo. Ritornammo al crepuscolo, bagnati, infreddoliti, avviliti. La battuta non aveva avuto effetto. «Se continua a piovere in questo modo», brontolò il sergente, «avremo il diluvio universale». E un pensiero mi attraversò la mente. Quando cessò di piovere e le acque del diluvio si ritirarono, disse il Signore: «Non punirò più la terra per colpa dell'uomo». «Ha mantenuto la promessa?» mi chiedo. Piove sempre più forte. «Bisognerebbe avvertire i carabinieri che N non è rientrato», dice il sergente. «Domani. Non capisco perché sia così tranquillo lei, professore. Penso che si sia smarrito. È facile da queste parti. E che abbia passato la notte in una fattoria. Non ci sono fattorie nei dintorni, solo grotte». Alla parola grotte sussulto. «Speriamo», continua il sergente, «che si sia rifugiato in qualche grotta e non si sia ferito. Sì, speriamo». A un tratto chiedo al sergente: «Perché stamattina non mi ha svegliato?» «Non l'ho svegliato», ride. «L'ho anche rivoltato sul dorso, ma lei è rimasto lì, come se il diavolo l'avesse preso». Proprio così. Dio è ciò che c'è di più terribile al mondo. L'ultimo giorno. Dio, giunse l'ultimo giorno della nostra vita di campo. Io del resto lo aspettavo. Il sergente e i ragazzi stavano smontando le tende quando giunse. Fu un'apparizione terribile. Il sergente si sentì male e dovette sedersi. I ragazzi rimasero lì, paralizzati dallo spavento, e quando ricominciarono a muoversi fu a poco, tremando. Soltanto Zeta non si scompose. Gli occhi fissi a terra, camminava in su e in giù, solo pochi metri. Poi tutti incominciarono a gridare, almeno così mi parve. Solo Zeta rimase muto. Che cosa era accaduto? Due operai forestali erano giunti al campo, due boscaioli, con sacco, sega e ascia, venivano a dire che avevano trovato il corpo di un ragazzo e ne portavano i documenti scolastici. Era N. L'avevano trovato vicino alle caverne, in un fosso, non lontano da una radura, con una ferita alla testa, provocata pareva da una pietra o da qualche corpo contundente. Comunque era morto. Morto stecchito. «L'hanno ucciso», dissero i boscaioli. Discesi con loro al villaggio, dai carabinieri. Correvamo quasi. Dio rimase all'accampamento. I carabinieri telefonarono al giudice istruttore della città più vicina, io telegrafai al preside. La polizia arrivò subito e si recò sul luogo del delitto. Là, nel fosso, giaceva N, sdraiato sul ventre. Lo fotografarono. La polizia esplorò meticolosamente i dintorni. Cercava il corpo del delitto o qualche impronta. Si poté così stabilire che N non era stato ucciso nel fosso, ma circa 20 metri più in là. Era chiaramente visibile la traccia lasciata dal suo corpo mentre lo trascinavano nel fosso perché nessuno lo trovasse. Saltò fuori anche il corpo del delitto, una grossa pietra aguzza macchiata di sangue e una matita e una bussola. Il medico constatò che la pietra doveva aver colpito N da vicino e con straordinaria violenza, proditoriamente alle spalle. Che N si fosse dato alla fuga. Certo, il delitto doveva essere stato preceduto da una lotta accanita, poiché gli abiti erano stracciati e le mani coperte di graffi. Quando tornammo al campo notai subito Z. Stava un po' in disparte. Anche i suoi abiti erano stracciati, pensai, e le sue mani graffiate. Ma mi guarderò bene dal parlarne. È vero che i miei abiti non sono stracciati e che non ho graffi alle mani, ma anch'io sono colpevole. Quelli della polizia interrogarono tutti. Nessuno di noi sapeva nulla del delitto, neppure io, neppure Z. Ma il giudice mi chiese: «Ha qualche sospetto?» Vidi nuovamente Dio. Usciva dalla tenda di Z e teneva in mano il diario. Poi parlò con R senza lasciare Z con gli occhi. Il piccolo R non sembrava vedere Dio, ma soltanto sentirlo. I suoi occhi ingrandivano, ingrandivano, come se davanti gli si aprisse un mondo nuovo. Sento il giudice istruttore ripetere la domanda. «Parli dunque, ha qualche sospetto?» «No, nessuno». «Signor giudice!» grida improvvisamente R. E si fa avanti. Z e N non facevano che picchiarsi, perché N ha letto il diario di Z e Z lo considerava suo mortale nemico. Infatti Z tiene un diario che si trova in una cassettina di metallo blu. Tutti guardarono Z. È a testa bassa. Impossibile vederlo in faccia. È bianco o rosso? Si fa avanti a passi lenti. Si ferma davanti al giudice. Tutto tace. «Sì», dice piano. «Sono stato io». Piange. Guardo Dio. Sorride. «Perché?» E mentre mi pongo questa domanda, non lo vedo più. È scomparso. I collaboratori. Il processo incomincia domani. Seduto nella terrazza di un caffè leggo i giornali. La sera è fresca, poiché è cominciato l'autunno. Da diversi giorni i giornali non parlano che di questo sensazionale processo. Gli uni col titolo «Il processo N» e gli altri col titolo «Il processo Z». Pubblicano articoli, schizzi, esumazioni di vecchi processi di cui furono eroi dei ragazzi. Parlano della gioventù in generale, in particolare, profetizzano, si perdono in digressioni, ma trovano sempre il modo di ritornare all'assassino Z e alla sua vittima N. Questa mattina un giornalista è venuto a trovarmi e mi ha intervistato. Certamente il suo articolo è già uscito sul giornale della sera. Ne compro una copia. Mi ha persino fotografato. Sì, ecco la mia fotografia. Mi sarei appena riconosciuto. Discreto però. E sotto, che cosa dice il professore? Già, che cosa dico? Uno dei nostri collaboratori ha visitato questa mattina al liceo il professore che la primavera scorsa sovraintendeva al campo nel quale doveva svolgersi la fatale tragedia fra ragazzi. Il professore ha dichiarato di trovarsi davanti a un mistero. Z è sempre stato uno scolaro sveglio e lui non ha mai rilevato nulla di anormale nel suo carattere, tantomeno istinti o tendenze criminali. Il nostro collaboratore ha fatto al professore la seguente grave domanda. «È possibile che il delitto abbia radici in un certo imbarbarimento della gioventù?» Il professore ha risposto con un formale diniego. «La gioventù d'oggi, ha detto, non è brutale, è, al contrario, perfettamente conscia dei suoi doveri, pronta al sacrificio, piena di sentimenti nazionali. Questo delitto è un caso unico e profondamente deplorevole, un ritorno alla peggiore epoca liberale. La campana suona, la ricreazione è finita, il professore si congeda ed entra in classe per fare delle giovani anime appena dischiuse dei preziosi cittadini. Grazie a Dio, il caso Z è solo un'eccezione, l'eccezionale esplosione di un criminale individualismo. Alla mia intervista segue un'intervista col sergente. Anche la sua fotografia è sul giornale, ma è almeno di 20 anni fa. Ebbene, cosa dice il sergente? Il nostro collaboratore ha intervistato anche l'istruttore militare dei ragazzi. L'istruttore militare ha ricevuto il nostro collaboratore con la più squisita gentilezza, ma anche coi modi rudi ed energici del vecchio soldato. Secondo lui, il delitto sarebbe il risultato di una mancanza di disciplina. Ha parlato a lungo dello stato del cadavere all'atto del ritrovamento. Ha fatto tutta la guerra. Non ha mai visto una ferita così orrenda. Come antico combattente, io sono per la pace. E con queste parole ha chiuso la sua interessante dichiarazione. Il nostro collaboratore è stato anche dalla presidentessa della Lega contro l'abbandono dei bambini. È profondamente addolorata della faccenda. Da diverse notti non dorme. Degli incubi la tormentano. Secondo lei è tempo che le autorità responsabili costruiscano case di correzione un po' migliori per sollevare certe miserie. Continuo a sfogliare il giornale. Toh, chi si vede? Ma sì, è proprio il fornaio N, il padre della vittima. C'è anche la fotografia della moglie, la signora Elisabetta N, nata a S. Rispondo volentieri alla sua domanda, dice il fornaio al giornalista. Il tribunale incorruttibile deciderà se il nostro povero Otto non sia stato vittima di una colpevole leggerezza da parte dei sorveglianti. E dicendo questo, alludo esclusivamente al professore, non all'autorità militare. Justitia fundamentum regnorum. Bisognerebbe procedere a un vaglio severo del personale insegnante che pullula di nemici più o meno palesi dello Stato. E la fornaia. Otto era la mia gioia. Adesso non ho che mio marito, ma Otto e noi saremo sempre in contatto spirituale. Faccio parte di un circolo spiritista. Continuo a leggere. In un altro giornale è scritto: la madre dell'assassino abita un appartamento di 3 stanze. È la vedova di un professore di università, morto da una decina d'anni. Il professor Z era un eminente fisiologo. I suoi lavori sulla reazione dei nervi in seguito ad amputazione hanno fatto rumore anche oltre il cerchio degli specialisti. Circa 20 anni fa fu per qualche tempo il bersaglio preferito della Lega contro la vivisezione. La signora Z disgraziatamente rifiuta di commentare il fatto. Dice solo: signori, non vi rendete conto della mia pena? È una donna di media statura vestita a lutto. E in un altro giornale scopro il difensore dell'accusato. È già venuto a parlarmi 3 volte e sembra darsi corpo e anima all'affare. È un giovane avvocato e sa l'importanza che può avere per lui il processo. Tutti i giornalisti puntano su di lui. È una lunga intervista. Signori, in questo sensazionale processo la situazione della difesa è estremamente precaria. Essa deve dirigere le sue armi non soltanto contro il pubblico ministero, ma contro l'accusato, che tuttavia deve difendere. Perché? Ebbene, signori, ecco, l'accusato si dichiara colpevole d'omicidio. Vi prego di notare che si tratta non di assassinio, ma di una ferita mortale. Ciò nonostante, e malgrado le confessioni del giovane accusato, sono convintissimo che non è lui il colpevole. Secondo me, vuole nascondere qualcuno. Non vorrà sostenere, avvocato, che il delitto è stato commesso da un altro? Proprio così, signori. La mia tesi, a parte un sentimento indefinibile che potrei chiamare il fiuto del poliziotto, si basa su ragioni plausibili. Z non è l'assassino. Riflettete, signori, sui moventi del delitto. Uccide il compagno perché questi ha letto il suo diario. Ma che cosa c'era in quel diario? La storia di una ragazza perduta. Egli la difende e proclama sconsideratamente: chiunque tocca il mio diario muore. Certo, certo, tutto è contro di lui, eppure, prescindendo dal fatto che nelle sue confessioni, nel suo atteggiamento c'è qualcosa di cavalleresco, non è strano che non si parli mai del delitto? Non una parola su come il dramma si è svolto? Perché non ne parla? Non ricorda, dice. Falso! Come potrebbe ricordarsi se ignora dove, quando e come il suo povero compagno è stato ucciso? Sa soltanto che è stato ucciso con una pietra. Ebbene, gli mostrano le pietre e non riconosce quella che è servita all'assassinio. Non ricorda, signori. Copre l'azione di un altro. Ma la giacca stracciata e i graffi alle mani? Certo, ha incontrato N su una roccia e si sono picchiati. Ce lo racconta lui stesso in tutti i particolari. Ma che lo abbia seguito furtivamente per colpirlo alle spalle? No, no, no, non lo posso ammettere. È un altro che ha colpito N, o piuttosto un'altra. Vuole alludere alla ragazza? Sì, proprio a lei. La ragazza domina Z. Lo domina ancora. Egli le è sottomesso. Signori, chiederemo al tribunale di ascoltare anche gli psichiatri. La ragazza è citata come testimonio naturale. È stata arrestata in una grotta poco dopo il delitto. Da tempo lei e la sua banda erano ricercati. Vedremo e sentiremo Eva, forse già domani. Quanto tempo durerà il processo? 2 o 3 giorni, immagino. A dire il vero, non ci sono molti testimoni, ma, come ho detto, dovrò combattere aspramente con l'imputato. Tuttavia, terrò duro. Il ragazzo sarà condannato per favoreggiamento in un caso di furto. Ecco tutto. Già, ecco tutto. Di Dio nessuno parla. ¿De dónde vienes, amor, mi niño? De la cresta del duro frío. ¿Qué necesitas, amor, mi niño? La tibia tela de tu vestido. Que se agiten las ramas al sol y salten las fuentes alrededor. En el patio ladra el perro, en los árboles canta el viento. Los bueyes mugen al boyero y la luna me riza los cabellos. ¿Qué pides, niño, desde tan lejos? Los blancos montes que hay en tu pecho. Que se agite las ramas al sol y salte las fuentes alrededor. Te diré, niño mío, que sé. Tronchada y rota soy para ti. ¿Cómo me duele esta cintura? ¿Dónde tendrás primera cuna? ¿Cuándo, mi niño, vas a venir? Cuando tu carne huele a jazmín. Que se quite las ramas al sol. Marco Foschi ha letto Gioventù senza Dio di Eugen von Horvath, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it. Ad alta voce è un programma Rai, Radio 3.